C'è una regola più semplice, che è la regola cosiddetta del polpastrello. Sì. La regola del polpastrello ci dice che la quantità di crema che sta su un polpastrello di un dito normale, dell'indice normale, deve servire a coprire una superficie pari a 2 palmi nostri. Sì. Quindi è chiaro che in un bambino piccolo 2 palmi sono praticamente tutto il dorso. Sì. E questo rende molto più semplice regolarsi. Ah, questa mi piace, il polpastrello. Ricordatevi il polpastrello.